Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Stop al dumping sociale degli autotrasportatori dell'Europa dell'Est. È l'obiettivo delle nuove misure proposte dalla Commissione europea nel pacchetto mobilità pulita. Nel testo presentato nei giorni scorsi vengono riviste le regole sul cabotaggio, sul trasporto internazionale, sul riposo in base al principio di paga uguale per lavoro uguale. Vengono inoltre semplificate le procedure amministrative per conducenti e società di trasporto. In particolare, sul fronte del cabotaggio, Bruxelles estende il numero di operazioni possibili, ora 3 in 7 giorni, ad un numero illimitato da effettuarsi però in 5 giorni. Allo stesso tempo l'autotrasportatore verrà considerato lavoratore distaccato sin dal primo giorno di cabotaggio, con le condizioni di trattamento del paese dove avviene la consegna. Nelle operazioni internazionali invece il camionista riceverà il salario del paese solo quando vi trascorre almeno 3 giorni al mese. Sul fronte del riposo settimanale ci sarà il divieto di rimanere in cabina, dovrà essere o a casa o in albergo. Finisce anche l'obbligo di conservare tutti i contratti cartacei sul mezzo pesante, dovranno essere comunque disponibili in formato digitale. Intermodalità è una delle parole chiave della logistica del futuro e in qualche modo anche del nostro programma. Il Ministero ha da tempo avviato la cura del ferro, cioè il rilancio del trasporto di merci via ferrovia all'interno di un sistema integrato. È stato concepito il ferro bonus, cioè un incentivo a favore degli autotrasportatori che fanno salire i loro mezzi sui treni, ed è stato avviato un piano di investimenti per realizzare le infrastrutture indispensabili a far correre le merci sui binari. Non solo grandi opere tipo il terzo valico dei Giovi, ma anche raccordi, collegamenti con i porti e gli interporti, adeguamento delle sagome, delle gallerie, cioè interventi fondamentali per rilanciare appunto il trasporto di merci lungo i binari. All'inizio dell'anno Ferrovie dello Stato ha battezzato Merci Italia, cioè il soggetto unico al quale fanno capo tutti i rami dell'azienda che hanno a che fare con il traffico cargo. Particolarmente attivi anche gli operatori privati che negli ultimi mesi hanno aumentato la loro quota di mercato. Per fare il punto sull'intermodalità ferro-gomma abbiamo intervistato Gianfranco Laguzzi, presidente di Fercargo. Direi che siamo in un punto di sviluppo. Lo split modale è partito, le azioni messe in piedi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono assolutamente coerenti, oltre che con le direttive europee dei corridoi TNT, anche e soprattutto con gli interessi e le aspettative degli operatori. Come imprese ferroviarie, ovviamente l'intermodalità per noi è un business centrale, ma in quest'anno le imprese associate a Fercargo sono cresciute del 20%, che è un numero straordinario, grazie al fatto che abbiamo costruito dei nuovi progetti insieme al mondo dell'autotrasporto, al mondo dei terminal, perché l'intermodalità si fa insieme. C'è un problema però ancora di infrastrutture? Direi di sì, infatti il piano di investimenti per portare i treni lunghi 750 metri, soprattutto per mettere le gallerie con sagoma adeguate, quindi per scendere con i semirimorchi e con i trailer e con le cube dei terminal della Padania, dei traffici internazionali dal nord e anche nel centro e sud Italia, servono assolutamente, sono tutti finanziati, i lavori sono in corso, RFI sta lavorando alacremente. Secondo gli ultimi dati disponibili, la quota delle merci trasportate via rotaia a che punto è? Allora, il mondo ferroviario merci è cresciuto complessivamente del 6%, e quindi lo split, l'incremento dello split del 7%, perché la quota oggi è sul 7%, è quasi impercettibile, è meno di un punto. Dal 7 bisogna arrivare almeno a un 15%. La media europea è superiore al 20%, in Svizzera, che sono i top player, ha superato il 70%. E della cura del ferro si parlerà il 28 giugno a Roma in un convegno organizzato da Fercargo. Per un paese come l'Italia, che produce molto nel settore ortofrutticolo, l'efficienza della catena logistica rappresenta un elemento decisivo per garantire il trasporto e la conservazione della merce nei tempi e nelle modalità adeguate. Di questo si occupa OITA, l'Osservatorio Interdisciplinare e Trasporto Alimenti. Alla Presidente Clara Ricozzi abbiamo chiesto un'analisi della situazione attuale tra leggi ed innovazione. È emersa l'esigenza di accelerare il più possibile il processo di semplificazione delle procedure, tant'è vero che questa nuova forma di attestato informatico, che doveva partire a marzo, finalmente pare che partirà alla fine di giugno e aiuterà la vita di chi svolge questo lavoro. È emersa anche l'esigenza di andare verso una maggiore integrazione con quelli che sono i paesi confinanti nell'applicazione dell'ATP, che è un accordo internazionale che vale solo per i trasporti internazionali. Ogni paese oggi nel suo interno si regola come meglio crede, quindi bisogna fare in modo di lavorare per andare verso una forma di ATP comunitario. Ultima cosa, voglio dire, ultima esigenza, proprio per ottimizzare e rendere sicuri per i cittadini gli cibi che riceve a tavola, andare verso un tavolo di lavoro permanente fra la grande distribuzione organizzata e coloro che sono i rappresentanti dei produttori, cioè federalimentari, affinché nei centri di grande distribuzione non si verifichino rotture di carico o peggio alterazioni degli alimenti dovuti a sbalzi di temperatura. Sicurezza stradale e pneumatici, ne abbiamo parlato già nello speciale andato in onda venerdì scorso. Oggi torniamo sull'argomento focalizzando l'attenzione sugli pneumatici ricostruiti. Lo facciamo con Stefano Carloni, presidente di AIRP. AIRP è acronimo di? Associazione Italiana di Costruzioni Pneumatici. Sicurezza e ricostruzione dei pneumatici, è un po' un tema centrale, presumo. È un tema importante. Il pneumatico ricostruito per sua definizione è un pneumatico sicuro, in quanto già da anni è un pneumatico omologato. Il processo della ricostruzione è un processo ultra testato, ultra certificato. Basta ricordare che gli aerei correntemente atterrano e decollano su pneumatici ricostruiti. In particolare questo discorso riguarda i truck? Sì, in modo particolare riguarda il truck, ma non perché esista qualche problematica di carattere tecnico per il vettura, ma c'è un problema di compatibilità economica, per cui maggiore la quantità di materia prima che si recupera e maggiore il vantaggio a ricoprire, quindi nel caso del truck il vantaggio è significativo. Cogliamo anche l'occasione per ricordare, se ce ne fosse ancora bisogno, che i coccodrilli che spesso vediamo in autostrada, cioè gli spezzoni di battistrada, non sono spezzoni di pneumatici ricostruiti, ma sono semplicemente pneumatici nuovi o ricostruiti che camminano in sottogonfiaggio e che per loro natura perdono il battistrada. Il futuro quale sarà di questo settore? Il futuro di questo settore è un futuro di tecnica molto spinta e di controllo elettronico della gestione del pneumatico. Cioè nel tempo avremo la possibilità di monitorare la pressione e la temperatura, dettaglio importantissimo quanto la pressione, in continuo, e quindi quando le carcasse raggiungeranno, i pneumatici usurati raggiungeranno il centro di ricostruzione, avremo ulteriori strumenti di verifica e di analisi. Gli pneumatici parleranno, già ci sono alcuni produttori che utilizzano per esempio identificazione radiofrequenza annegata dentro il pneumatico, che consentirà ancora più nel futuro anche di immagazzinare dati importanti attinenti proprio alla vita del pneumatico. Il cluster Trasporti Italia è un organismo di soft governance tra i sistemi pubblico e privato della ricerca e dell'innovazione nel settore dei trasporti. Nei giorni scorsi alla presidenza è stato confermato Enrico Pisino, ascoltiamolo. Il cluster tecnologico nazionale sui trasporti è uno dei 12 cluster tecnologici definiti dal Ministero della Ricerca e dell'Università per definire le sfide nell'ambito appunto della ricerca e innovazione per l'Italia, quindi le sfide con cui competere sui mercati internazionali. Il mondo dei trasporti è appunto uno di questi 12. Ma sentiamo quali sono le linee programmatiche dell'azione del cluster trasporti. Il nostro obiettivo è quello di supportare i policy maker a fare le scelte giuste, quindi a indirizzare gli investimenti per ricerca coerentemente con le roadmap tecnologiche che il cluster aggiorna di anno in anno, per eventualmente anche definire le azioni di medio e breve periodo che i vari ministeri, quindi non soltanto quello della ricerca ma quello dei trasporti e dello sviluppo economico, fa per sostenere e il mondo dei trasporti e le imprese italiane. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45 in coda ad effetto giorno, ora il GR da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.